Ci siamo, eccolo qua, il microfono di Radio Onda Rossa aperto, 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale, questa è 25 o'clock. E dal momento che è il 20 aprile... Non possiamo che declinare, far virare il colore della trasmissione 25 o'clock verso quello che è la settimana, appunto, che ci sta aspettando, che è già iniziata, ecco, che ci porterà alla data del 25 aprile, cioè... la ricorrenza della liberazione dal nazifascismo ad opera dei ribelli della montagna, ma anche dei ribelli dalla città. Ecco, non possiamo far altro che occuparci di questo, e lo faremo inizialmente ricordando un'iniziativa che è in sottoscrizione di Radio Onda Rossa, andandovi così a descrivere. Questa iniziativa è nata, come dire, dalla spontanea adesione di compagni e compagne della provincia a sud di Roma. E del loro resistance Sunday Fest, hanno deciso appunto di farlo in sottoscrizione dei Radio Onda Rossa. Uno dei tanti modi per sostenere questa radio, quindi forse il più bello di tutti, proprio quello che gradiamo di più, cioè che autonomamente compagni e compagne decidano di fare un'iniziativa in cui la radio diventa visibile oltre che ascoltabile. Poi nel corso della puntata vi daremo tutti i riferimenti della radio, poiché ci siamo persi in chiacchiere durante la sigla. Comunque, 0649 1750, il recapito telefonico, 6180 4001, il numero del conto corrente postale per appunto sostenere Radio Onda Rossa, da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185, Roma San Lollo. Ed eccoci in diretta quindi con Pamela, che è fra le organizzatrici di questa iniziativa importante, appunto le più gradite per noi, dicevamo poc'anzi, credo che eri in ascolto, no? Comunque, pronto, ci sei? Pronto? Just say. Pronto Pamela, ci sei? Eccomi. Ah, vedi, adesso ci sei. No, vabbè, ogni tanto si inceppa qui tutto l'ambaradam. Comunque, dicevamo, Pamela promotrice, fra le promotrici dell'iniziativa appunto di cui stiamo parlando, non so se stavi già ascoltando la radio. Sì, mi ero proprio collegata poco fa. Quindi insomma sì, dicevo, le iniziative che più gradiamo, insomma, quelle di chi autonomamente decide di sostenere Radio Onda Rossa perché si sente di farlo, insomma, quanto più ci piace ricevere. Ci vuoi insomma parlare più nello specifico di quello che succederà domenica 24 di questo mese? Allora, intanto sì, purtroppo il tempo non è che si sta mettendo molto bene, quindi speriamo di poterlo fare questa domenica, altrimenti penso verrà rimandata alla successiva. E comunque partirà tutto dalle 10:30, ci saranno i mercatini più una mostra. E ci sarà lo stand di Terra Madre alle 10:30 della mattina, dico, eh? Sì, della mattina, perché comunque i concerti inizieranno presto, intorno alle 15. E, insomma, in scaletta ci sono i Limerent, che è un gruppo di ragazzi step punk. Poi ci saranno i Gram, fanno rock alternative, e Dirty Fake, che fanno rock alternative, i Nuari di Carpineto, post grunge. E ci farò io il mio progetto solista. Benissimo. Vabbè. Ascolta, non abbiamo detto però dove. Chiaramente Lanico, che è un paese in provincia di Roma. Di Roma, come ci sarà, diciamo, su una piazzetta del centro storico. Sì. Poi c'è l'evento su Facebook, quindi ci sono tutte le indicazioni. Perfetto. Da Roma, insomma. Perfetto, ascolta, come esce fuori appunto questo festival e come esce fuori poi il volerlo così declinare come sottoscrizione di Radio Onda Rossa e appunto Montelani? Sì. Noi abbiamo soltanto posti all'aperto per organizzare, quindi abbiamo deciso di sfruttare tutta l'estate e fare più festival possibile, infatti ne abbiamo nati 3 in cantiere. Questo è stato, vabbè, l'abbiamo chiamato così perché è per tutte le persone che resistono, insomma, per mantenere vive le proprie passioni, che comunque, cioè, è un po' difficile in provincia fare musica anche estrema, insomma. E poi, vabbè, abbiamo deciso di farla a sostegno di Radio Onda Rossa perché ci sembrava giusto, insomma, mi serve una mano, quindi ve la diamo volentieri. Con grande semplicità, va bene. E poi ci saranno dei buchi di cambio palco tappati a mestiere dalle letture di Lorenzo Scala, che è un nostro amico scrittore bravissimo, sì, e un'altra poetessa molto brava, Peppe. E quindi ci saranno questi intermezzi di letture, insomma. Bene. Invece appunto ci parlavi appunto del fatto che vi state dando da fare per appunto organizzare non solamente questo, non soltanto questo del 24 aprile, poi magari parliamo anche appunto, è una data importante, insomma, non casuale. Tanto è vero che si chiama Resistance Sunday Fest, insomma, in cui la resistenza ci sta tutta. La resistenza intesa come, vabbè, poi magari ce lo dici te. Dicevo, come questa, adesso formulo bene la domanda, mi ci metto d'impegno. La situazione appunto dei paesi a sud di Roma, della provincia romana, e dicevi appunto stiamo organizzando diversi festival, perché qual è la situazione, come ci si rapporta con quel territorio, qualora e quando estrema, qui dove siamo noi proprio è impossibile in locali suonare, quindi organizziamo in vari posti che abbiamo, cioè dove è possibile fare, insomma. Abbiamo un orto occupato sempre a Montelanico, dove organizzeremo la seconda edizione di questo festival, si chiama Dal tramonto all'alba. Sarà il 27 maggio. E ci saranno gruppi anche di fuori. No, vabbè, no, no, poi avevamo detto già in precedenza, adesso magari ce li citi, poi avremo anche modo fra qui 25 o'clock e Dr. Self Invasion magari di riparlare di questi, questi festival, sempre comunque in spirito di autogestione, no? A quanto mi sembra di capire. Come, appunto, come si rapportano poi i pischelli, chi partecipa a che tipo di di impostazione e come dire di rapporti ci sono fra voi, insomma, fra i vari paesi della zona, e che qual è la, quali sono i luoghi, appunto, a parte questi, dove poi si terranno i vari festival, come vi incontrate in qualche misura, come riuscite a, perché vi conoscete già da anni, perché è una scena che in qualche maniera si ingrandisce. Sì, vabbè, noi ci conosciamo da anni, però diciamo nell'ultimo periodo, proprio da 3-4 anni che insomma mi sono messa proprio in testa ad organizzare questo festival, e mi stanno dando una mano anche Terra Madre, questa associazione. Che poi andremo a sentire, tra l'altro, tra poco. Che andremo a sentire fra poco. Sì, infatti. E praticamente, vabbè, poi te lo dirà lui di cosa si occupano. E niente, noi facciamo delle riunioni, cerchiamo appunto di organizzare le scale, dato che non abbiamo posti al chiuso. E vabbè, i vari posti sono, ti ho detto, l'altro occupato lì, poi c'è Montelagno, sempre al paese, ci fanno organizzare un festival all'estate, Terra Madre, dura 3 giorni, e poi ci sono vari mercatini dell'artigianato, però questo tramite permesso di comune, insomma, con un parco. Ho capito. E poi c'è il Macera Fest, che lo faremo a giugno, quello si farà a Carpinedo, in alta montagna. Abbiamo cambiato location, prima lo facevamo in un terreno privato nostro, ma adesso già, diciamo, stiamo collaborando con dei ragazzi che hanno questa associazione, il Carpino, per fare una cosa un po' più in grande, dato che non abbiamo molti fondi a disposizione, ci danno una, cioè, ci si dà una mano a vicenda, insomma. Che tipo di rapporto c'è invece fra chi organizza poi e chi è l'utente di queste iniziative, di questi festival, di queste vicende? Cioè, come rispondono i pischelli della zona, e visto che appunto non è la prima edizione di queste iniziative? Sì, beh, in zona non a tutti piace la musica estrema, insomma, c'è un pubblico molto ristretto, però partecipano. La cosa bella è che anche da Roma, insomma, vedo che si spostano, quindi speriamo quest'anno che vada meglio, insomma. Va bene. Allora, vogliamo un attimo ripetere così le coordinate per il 24 aprile, magari lo possiamo fare anche insieme, se eccomi, si apre tutto quanto. Quindi la locandina recita l'associazione, poi c'è sulla locandina, non so se sarà cambiata, ma c'è, diciamo, un'inesattezza che te già hai corretto implicitamente. L'associazione Terra Madre, in collegamento con Branco Suidae, si legge così? Suide. Suide, perché sarebbe? Io sono molto ignorante. Beh, Suide è la famiglia dei cinghiali. Ah, ok. Come il logo ci è stato disegnato da una ragazza, Michela, che abbiamo conosciuto da poco, aveva questa forma di cinghiale, quindi abbiamo deciso di chiamarci così. Branco Suide. Siamo noi dell'associazione, saremo noi mefitica praticamente. Perfetto. E qualche altro ragazzo che ci dà una mano, insomma. Ok, Resistance Sunday Fest, perché il 24 aprile e giornata a sostegno della Rionda Rossa e di tutti quelli che come noi resistono a mantenere vive le proprie passioni. Dalle ore 10:30 mercatini più mostra. E lo stand gastronomico di Terra Madre sarà per tutto il giorno, dalle 3 parte i concerti. Il tutto a Piazza Cavour, zona centro storico, Montelanico, provincia di Roma. Come ci si arriva? Guarda, dall'uscita dell'autostrada Colleferro, basta seguire i cartelli per Montelanico. Perfetto. Poi si arriva a una piazzetta, e da lì praticamente si è arrivati, perché vecchie del paese vecchio, sì. Non stiamo parlando di una metropoli, insomma. No, è molto facile. Benissimo. Ovviamente l'autostrada è quella Roma-Napoli, insomma, per i più disattenti, che magari imboccano la Roma-Firenze o la Roma-Fiumicino, insomma, no, è la Roma-Napoli, uscita con le ferro e poi seguite per molte lane. Comunque, sia sul sito della radio ci stanno i riferimenti, sia appunto, mi hai detto, c'è una pagina Facebook dell'evento, quindi sì, non avete scuse per arrivare e per venire tutti e tutte a Montelanico. Esatto, venite. Va benissimo, dai, ci aggiorniamo mano a mano che la vostra, il vostro impegno e la vostra iniziativa si farà via via che la stagione avanza più fervente. Ok? Ok, va bene. Dai, ci aggiorniamo e grazie. Grazie a voi. Ciao. Aucana 6, il disco dei Gram che stiamo ascoltando. Un lavoro molto suggestivo questo qua, Gram, che ascolterete appunto a Montelanico lunedì prossimo. E qui nel frattempo appare Media Fake, perché loro sono un'altra formazione che suonerà appunto a Montelanico, si chiamano i Dirty Fake Hollywood, non Hollywood, Hollywood. E quindi con i tempi delle macchine di Radio Onda Rossa andiamo ad ascoltare invece Nuari. E l'accento è proprio messo sulla A, Nuari. Che suoneranno anche loro il 24 di questo mese a Montelanico. Resistance Sunday Fest. Eccoci qua, pronto, ci sei? Sì, pronto, ci sono, ciao. Avevi detto no, invece c'eri. Allora, sì, come non siamo con Fabio per parlare, dopo averlo fatto con Pamela, appunto, di questa iniziativa. Non so se te hai ascoltato fino ad ora, oppure se non era impossibile. Non c'è il segnale qui da noi. Accidenti, sì. Va bene. Sì, purtroppo. Però mi parlavano che tu appunto comunque sei un ascoltatore della radio in quando posso, certo che sono un ascoltatore. Poi insomma io trovo via De Volci di una radio frequentata negli anni '80, quindi benissimo. Insomma, sai di cosa parliamo, insomma. Allora stavamo parlando, sì, diciamo con Pamela che questo tipo di iniziativa che prendono compagni e compagne in sottoscrizione della radio, cioè quella di organizzare un'iniziativa, addirittura in questo caso un festival in qualche maniera, insomma una sì, festa, un'iniziativa diciamo anche non come ricorrenza, ma soprattutto come resistenza, insomma, come la Radio Onda Rossa, che è una radio che resiste, noi saremo con loro che resistiamo. Ok. Quindi è un festival, insomma, dedicato a chi resiste, va. Perché è quello di resistere, purtroppo, purtroppo, anzi, per fortuna, è così una nostra attitudine da il 1943, ma forse anche prima in poi, per cui poi andiamo a fare appunto, andiamo a parlare di resistenza il 24 aprile, che ovviamente è una data che viene prima al 25, quindi ha un significato. Certo, è un preludio, diciamo, della è in cui appunto della liberazione. Però dicevamo, purtroppo, per fortuna, evidentemente non ci siamo ancora liberati del tutto e bisogna continuare per questo, insomma, a combattere. Resiste sempre. Io non tenerla come una ricorrenza la liberazione. Sì, ma non c'è poco da ricorrere fino alla fine. Ascolta un attimo, sì. Come lo fate voi? Cioè, come resistete? Nel senso che te sei anche poi il promotore o fra i promotori di un'associazione? Il nostro di resistere, insomma, diciamo che è uno stile di vita diverso. Nel senso, noi, a parte l'associazione, insomma, che organizza la giornata, è nata proprio per la contro la vendita delle terre demaniali ai privati, quindi a chi le potrebbe sfruttare. Mm-hmm. E noi abbiamo delle terre, insomma, del comune, un oliveto, un orto, quindi la resistenza è quella che, siccome ci troviamo in un paese dove l'unica risorsa è l'agricoltura, che è stata abbandonata. Stiamo parlando di Montelanico? Sì, di Montelanico, okay. Sì. Quindi noi coltiviamo un orto, oliveti, terre varie, mm-hmm. Per un auto produzione, autoconsumo dei prodotti, degli eccessi, ecco, che usiamo proprio nelle iniziative come esempio di stile di vita diverso contro, che ne so, bisogna comprarsi cose che avvelenate, prodotte chissà come, cioè le produciamo da soli, contro queste multinazionali che ci propongono tutte queste schifezze possibili. Ecco, questa è l'attività, la resistenza che cerchiamo di trasmettere ai giovani, soprattutto perché, insomma, vanno in cerca dei lavori senza quali. La cosa più bella, ci sono queste risorse da usare. La cosa più bella e interessante forse di questo tipo di esperienza è che non è che si teorizza molto, però si fa molto. Si fa molto, certo si fa. È una cosa che sì, uno ne può anche parlare, ma soprattutto c'è bisogno di braccia, c'è bisogno di impegno, c'è bisogno di volontà e c'è bisogno, come dici te. Perché certo sono cose che, insomma, non è che rendono, sono cose che si fanno per non entrare nei mercati, per le cose. Non rendono in termini monetari, ma rendono però in termini di qualità. Rendono, che mangi cose di qualità, buone. Le proponi, insomma, poi abbiamo vari collegamenti con molti produttori, contadini come noi, quindi, insomma, c'è anche una rete, va? Si crea piano piano, quindi è basato sullo scambio dei prodotti, no? Soprattutto non è che poi c'è guadagno, facciamo scambi baratti di cose, quindi qualsiasi cosa ci capita. E quindi nella piazza di Montelanico, a Piazza Cavour, che sì, è un po' la piazza è un po' la piazza principale. Sì, una piazzetta nel centro storico, okay. Non nella piazza principale, ma okay. Centro storico. No, non conosco la topografia. Con l'apertura di un mercatino, uno stand gastronomico, una mostra, e poi, insomma, vari interventi da parte di compagni dell'associazione anche. Okay. E poi il festival musicale, insomma, Dulcis in fondo, quando a quel tempo ce lo permette, a quando ci regge, dai. Va bene, quindi, poi Pamela ha parlato, sì. dei gruppi, insomma, sì, sicuramente Pamela ci ha un po' raccontato il programma della serata, però mi è sembrato di capire, tra l'altro, che sempre con voi sono in progetto altre cose anche in futuro, molta effervescenza, un'iniziativa molto lunga, dura 4 giorni, a un parco sempre qui a Montelanico. Sì. Dove questi 4 giorni proponiamo, insomma, dimostriamo proprio che facendo agricoltura come la famo noi, se riesce, perché distribuiamo in quei 4 giorni la gastronomia è basata sui nostri prodotti, quindi, insomma, è una bella cosa. Sono 4 giorni, c'è campeggio libero, tutte le sere concerti, discussioni, insomma, ecco, quella è un'iniziativa che insomma, abbastanza, insomma, è partita come la prima iniziativa che era stata dedicata a Carlo Giuliani, poi insomma varie cose del genere, no? Sì. Sempre su, su tematiche che ci riguardano. Sì, come sempre poi, per dire, noi usiamo una cosa, insomma, che è molto usiamo durante i pranzi piatti che abbiamo fatto, raccolte dei piatti in ceramica, quindi non usiamo plastica, non usiamo tutte queste cose, siamo molto coerenti, rispettosi nel riguardo della natura, insomma, quindi cioè, anche perché ci rivede, insomma, in qualche misura. Se troviamo, se c'è acqua, ce la facciamo. Se abbiamo fatto raccolte di piatti, bicchieri, posate, quindi facciamo pure questo, insomma, fa parte della nostra etica. Senti, siccome guardare, siccome molti bambini, molte bambine che vanno a scuola adesso, insomma, per capirci, nelle città, insomma, secondo sondaggi, sono abituati male, nel senso, a parte le merendine industriali, eccetera, eccetera, c'è anche difficoltà appunto addirittura nel riconoscere gli animali, che ne so, la gallina piuttosto che il cavallo, eccetera, che non l'hanno mai visti. Ma a parte questo, in associazione abbiamo anche un paio di cavalli. Perfetto. No, quello che però la domanda è un'altra. Questo è il cappello. Questo è il cappello. Però ci stanno anche degli adulti. Sì. Ci stanno anche degli adulti, invece, delle persone ormai molto grandi, che si sono probabilmente dimenticate, perché poi quando eravamo più ragazzini lo sapevamo, che la natura, insomma, l'orto, la terra. Ci dà dei prodotti stagionali, cioè quando te vai al supermercato oggi trovi, che ne so, è il mese di aprile, trovi quello che vuoi, pomodori, uva, ecco. Sì, invece certo. Il 24 aprile che cosa troviamo a Montelanico? Allora abbiamo fatto, cioè, quello che ci dà la terra, diciamo. Che adesso l'orto, sai, è periodo di semina, di piantagioni, sì. Il l'orto invernale sarebbe finito, sì. I broccoletti non ci saranno più, queste cose, però abbiamo fatto, potrebbe arrivare la fava adesso, però una raccolta, le fave sono ancora piccole, però arriveranno da un altro orto sicuramente, bene, perché abbiamo, come dicevo prima, insomma, siamo collegati con altri, ci sono dei compagni che da Cisterna, quindi sono parti, sai, che fa stanno caldo verso il mare, sono caldi, già fanno le cose pronte. Però noi abbiamo fatto la raccolta delle erbe di campo, cicoria, romolaccio, insomma, queste erbe così siamo raccolti, quindi faremo panini con queste verdure, fagioli, abbiamo insalata nostra, ecco, tutto quello che è possibile del nostro, cioè, però non è il periodo, quando è l'estate facciamo queste iniziative, alle 4 giorni sono tutti i prodotti nostri. Certo, c'è sta pure la adesso frutta, l'orto, insomma, è un po' finito, sì, non è il periodo, sì, no, è il periodo, è il periodo in cui abbiamo fatto questa raccolta di erbe di campo, in modo che sono cose qui, insomma, l'erba di campo ce n'è di tutti i vivi, certo, le cicorie e le cose varie, sì, anzi questo è il periodo proprio in cui è in massimo vigore la natura, sì, quindi produce. Siamo stati oggi, abbiamo fatto la piantagione delle patate, domenica abbiamo messo fagioli, fagiolini, melanzane, zucchine, insomma, tutte queste cose, è va tutto bene, in partenza, in crescita. Va bene, quindi vogliamo sempre dare appuntamento, ce lo ridici te, ci dici, certo, abbiamo già detto, però lo ripetiamo per gli distratti, come si arriva e... Sì, innanzitutto invito tutti gli ascoltatori, insomma, a partecipare a questa giornata di resistenza dedicata alla Radio Onda Rossa, che è la radio che resiste, a noi che, come loro, siamo sempre pronti a resistere alla cosa, quindi... se potete intervenire a Montelanico, in provincia di Roma, anche se non possono, vengono uguale, anche se non possono devono venire. Noi l'aspettiamo, insomma, no? Certo. Quindi deve, dalla mattina arrivare a Montelanico dalla mattina, sì, dalle 10 c'è l'apertura del mercatino, che ci sono qualche compagno locale, produttore di miele, verdure, insomma, gastronomico, verso le 13 c'è il pranzo, poi ci saranno degli interventi, qualche poesia non ricordo manco come si chiama, vabbè, insomma un po' di interventi politici, e poi inizia il festival musicale fino... Le poesie sono di Lorenzo Scala, sì, per caso? Sì, ecco, Lorenzo Scala, sì, è un amico, insomma, non mi ricordo. Io purtroppo, cioè, il difetto è proprio questo, tra nomi, date e cose varie, sono un po' difettoso. Sì, sì, vabbè, sta in buona compagnia. Sì, pure lei. Sì, sei un po' difettoso, sì, così. Sì, sì. Vabbè, con i numeri, le date, i nomi e anche, quindi, le facce. Insomma, ecco, fino alla fine c'è lo stand gastronomico aperto, ci si arriva dalla Roma-Napoli uscendo a Colleferro, direzione Carpineto Romano, prima di Carpineto Romano c'è Montelago. Benissimo. La piazza principale si chiede, insomma, qual è il centro storico, un paesino del 1000 abitanti, penso che sia facilissimo trovarci. Va bene, Fabio. Ti ringraziamo molto, vi ringraziamo anticipamente, anche io, perché appunto questo, sì, tipo di iniziative così che nascono da un moto spontaneo, come dire, un affetto, sì, e una vicinanza complice e sincera, sì, insomma, sono quelle che ci piacciono di più. Quindi dai, diamo appuntamento a tutti e a tutte, ci vediamo domenica mattina. Bene. Bene, Fabio, ciao, grazie, ciao, a presto. Buon proseguimento. Grazie, ciao. Grazie a voi, ciao, ciao. Sono sicuro. Ci saranno altre sere come questa. Ci saranno altre sere come questa. Frontiera in altre sere come questa. 25 o'clock, Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza, 23:33 minuti primi. Se guardo non sono cambiato, in fondo conto i miei giorni da poco. E guardo il sole, sono certo che deve scaldare. Tutto cambia, ma è tutto uguale. Puoi chiamarlo come vuoi. Puoi chiamarlo come vuoi. Cercare le cose più pure. Cercare un'altra porta. Cercare le cose che mancano. Cercare nella nostra vita. Quindi il 24, tutti e tutte a Montelanico, per una gita domenicale per chi ci ascolta. Dalla metropoli invivibile. Anni fa, ognuno tira ancora diritto. Cosa resta? Cosa resta? Per il Resistance Sunday Fest. E poi alzataccia la mattina del lunedì 25 aprile, piazza di Porta San Paolo, ore 10. Contro ogni fascismo, io non dimentico. 2006-2016, Renato Biagetti. Per dire che la guerra di liberazione è stato un enorme passo avanti per tutti e tutte noi. Cercare le cose più pure, cercare un'altra porta. Cercare le cose che mancano, cercare nella nostra vita. Ed è un patrimonio quello dei ribelli della montagna. E delle ribelli della montagna. Nel nostro storio furore. E non vogliamo affatto trascurare un patrimonio, una ricchezza, un stimolo, un esempio che dobbiamo tutti i giorni perseguire. Parte a manetta perché solo la guerriglia partigiana è quella che ci interessa. La loro pace ha risparmiato. La loro pace. chi sta in alto dice questa è pace, questa è guerra. Kalashnikov Collective. Era Dante Di Nanni, Airesis. Invece questa qua ve la rimando da capo, dura un minuto e sei. Swastikas and clan robes. The only good fascist is a very dead fascist. and ropes. Sexist, racist, homophobe. Aryan nations and hammer skins. You can wear my nuts on your Nazi chins. I love a man in uniform. And just what exactly are the great historical accomplishments of your race that make you proud to be white? Capitalism, slavery, genocide, sitcoms. This is your fucking white history, my friend. So why don't we start making history worth being proud of and start fighting the real fucking enemy? Swastikas and Klan robes. Sexist, racist, homophobe. This one's for the master race. My brown power ass in your white power face. Kill them all and let a Norse god sort them out. Propaganda. Quindi dopo Propagandi e la loro The Only Good Fascist, The Very Dead Fascist, siamo passati ai Sonic Youth, forse fra i migliori, quelli di Dirty, dove al nono posto della scaletta, della lista, della tracklist, ci sta Youth Against Fascism. Eppure quella è una roba che di tanto in tanto, anzi, proprio in questo periodo amiamo mandare. Perché lo dicevamo poc'anzi. La liberazione è qualcosa che va coltivato giorno dopo giorno. E abbiamo usato proprio il termine coltivare. Perché coltivando si hanno i frutti del lavoro che si svolge. Of course the loss of freedom and democracy are tragedies, I know. But consider the... Fatto sta che non è bastata senz'altro la guerra di resistenza in Italia e in tanti altri paesi d'Europa. Per farla finita col fascismo. Che ha la facoltà di tramutare le forme, i modi e i linguaggi ed essere trasversale proprio alle società, anche quelle di oggi. È che il fascismo, il nazismo sono state delle forme, delle concrezioni del potere, quello industriale, quello capitalistico, quello delle grandi concentrazioni appunto di capitali e di industrie. Proprie delle società del XX secolo e anche quelle di oggi e appunto... L'opzione fascismo è una modalità proprio di questo modello di sviluppo che in vari dosaggi, in vari modi, in varie forme viene ritirato fuori. E prende il nome di repressione, annichilimento, omologazione, porta appresso, come dicevano propagandi prima, un sacco di roba come l'omofobia e il razzismo. Ed egoismi ed ignoranze di ogni grado, di ogni livello. E di questo parlava proprio Friendly Fascism Consolidated. Anno 1990, eh. con i ribelli della montagna. Sopra una nave lungo il terreno, caro un'altra sette, le sette con il morto, il terzo era un gendarme, il quarto un re, la fiato un conto. La storia del mondo se non abbassano le mele, la vita mia con chiandelle. Tempo, uccise un presidente, né per gli altri cento. Forse fu a vent'anni, o forse due di meno. Era con Gaetano Bresci, sopra una nave lungo il Tirreno. Giocarono a tre sette con il morto. Il terzo era un gendarme, il quarto un re. Al fiato corto. Un tempo fu a Milano, dove si va a lavorare. C'erano tante bande, quante banche da rapinare. Forse fu per caso che con Pietro Cavallero fece la comparsa in un film in bianco e nero. Gli diedero fucili e pistole di terza mano, un passaporto falso per fuggire via lontano. Si fece catturare alla catena di montaggio. Quel tempo chi lo ricorda, lo Stato aveva mal di cuore. Così a Renato Cuccio chiese in prestito nuove parole. Con quelle parti all'assalto di nuovi mulini a vento, incontrò anche un sorriso lungo la strada che porta a Trento. Questo tempo con un'arma un po' speciale, una Magnum Les Paul, spara canzoni che fanno male. Ora ha una nuova banda, un fazzoletto rosso e nero. Quando fa saltare il mondo intero. Ma un tempo fu un bandito, bandito senza tempo, veniva con la pioggia e se ne andava via col vento. Quando canta I Fought the Law, questo è Bandito Senza Tempo, The Gang. E quindi in avvicinamento al 25 di aprile, Actum Bandita in Città della Resistenza, Resistenza delle Città. Gli Arditi del Popolo di Viterbo con Silvio Antonini, documentarista e storico, poi i GAP di Roma, con Davide Conti, ricercatore in storia contemporanea, e la Volante Rossa di Milano con Francesco Trento, scrittore. Tutto questo il 22 aprile dalle ore 16, Università La Sapienza, piazzale di Fisica, CPR di Lettere. E questa è la parte, diciamo, più colta, più parlata di Actum Banditen, perché poi Actum Banditen in realtà parte il 21 aprile alle 22, Università La Sapienza, zona Lucernaio, La Furia, Los Tres Altos, 666 o 666 come preferite, Steady Rockets e palcoscenico al Neon. Da luna di notte in poi, senza tetto né panni, DJ Set, Brega e il Prince Perro, più Roma Trash All Stars. Tracce di sangue, gomme di fuoco, urlano le sirene. Invece il 22 aprile, zona Rittorato stavolta, tutta la notte dentro in questura, Welcome to the Jungle, Danno, DJ Ceffo, Canna Suomo, Fiat Fit Chaos, DJ Set, DJ Crime, Mezzo Sangue, Paura, Sace, Urban Force e Cuba Caballa, Laboratorio e Pop Meticcio, Stay Real. Io non dimentico. Contro ogni fascismo 2006-2016, Renato Biagetti. A Radio Onda Rossa da un po' abbiamo anche aggiunto così alle nostre policy, al nostro modo di voler parlare per radio. Io sono un ladro imparato a rubare, come imparato, anche dalla scelta di voler essere. Io sono un ladro imparato a... E quindi una radio antifascista, antisessista, io sono antirazzista, un assassino e dell'inferno paura, non è la... contro l'omofobia e la transfobia, e anche radio antispecista. Cara la pelle, Johnny non si arrenderà, senza tetto né lecce né stelle, né uomo né donna né vento lo raggiungerà. La morte. Tanto che ospitiamo una trasmissione che si chiama Radio Possum, che va in onda ogni lunedì sera. Entra nel letto. Che proprio si occupa delle tematiche dell'antispecismo. del ventre gitano. Dove lo specismo è quella qualità. Quell'affermazione che così, anche in tempi abbastanza recenti, dobbiamo dire storicamente parlando, dice che ci sta una specie superiore alle altre. Guarda caso questa specie dovrebbe essere proprio l'uomo, la specie umana. Vabbè, insomma, ci è venuto di mandargli questa roba che viene dopo. La canzone del bosco, che a loro piace, sappiamo. Anche a noi piace. Per cui da a capo, 25 o'clock, Onda Rossa. Siamo riusciti a recuperare la situazione. La canzone del bosco da capo. Ogni civetta ha la sua casa, un albero. Ogni civetta... Ce ne scusiamo soprattutto col conduttore di Niente da Venda, a cui non sfugge nulla. Invece no, no, no, no, no, no. Da capo. Invece... Oh, meglio che restar con quattro all'occhio e un gufo. Per questo che non è che una questione di piumaggio, preferirò grotte di tufo, son sempre meglio che restar con quattro all'occhio e un gufo. Questa era Intollerante, ovviamente, dopo i Pancreas, la loro canzone del bosco che vi abbiamo fatto sentire in silenzio per un pezzo. Questi invece sono Cruel Revenge. E questa era Intollerante. 13 minuti dopo la mezzanotte, questa è 25 o'clock, questa è Radio Onda Rossa. (06491750) per illuminare di rosso la radio più rossa che c'è. ondarossa@ondarossa.info. Invece l'indirizzo a cui mandare le vostre comunicazioni per la radio e alla radio 25 o'clock 25 scritta numero 25 o'clock@ondarossa.info. Invece, altrimenti, la casella di posta elettronica che potete contattare per sottoporre al sottoscritto le vostre proposte musicali, i vostri suggerimenti, nonché i vostri insulti. Rimaniamo questa volta in provincia, un'altra provincia, quella di Viterbo, di dopo Cruel Revenge. Se ancora non l'avete capito, vi diciamo qual è la nostra parte. Anzi, ve lo spieghiamo con loro. Radio Onda Rossa ama i suoni, vuole i suoni militanti, i suoni che raccontano della propria esistenza quotidiana, del proprio lottare. E quindi in rapida successione, razza a parte, servi o ribelli. Poi da un vecchio lavoro, come d'altronde quello dei razza a parte, per direttiva 16, Rush. Red Anarchist Skinhead. E poi Assedio, stesse radici, Io non dimentico. No, noi no, non aspettiamo in vano, non siamo spettatori, né stupide comparse, siamo i protagonisti di questa nostra storia. E siccome suoneranno appunto il prossimo 21 aprile in quella della zona del Lucernario all'Università La Sapienza dalle ore 22 in poi, questo è un vecchio regalo che fece la Radio Onda Rossa. Nulla di eclatante, nulla di originale, come un pezzo di canne. Tant'è vero che fu inserita in una compilazione che pubblicammo in sottoscrizione della radio. Fischia al vento, urla la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. Fischia il vento, palcoscenico al neon. Fischia il vento, urla la bufera, scarpe rotte e pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna a lui dona un sospir. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore e il braccio nel colpir. Se ci coglie la crudele morte, pura vendetta sarà del partigian. Già decisa è la dura sorte del fascista, vile traditor. Cessa il vento, calma la bufera, torna a casa il fiero partigian. Sventolando la rossa sua bandiera, i vittoriosi al fin liberi siamo. We'll be right back. fino a che ci sarà un fascista sulla faccia della terra, ci sarà un buon motivo per essere antifascista. Dai. Scaglia il sasso dell'intelligenza, delle vetrine vuote, della loro ignoranza sputa. Scaglia il sasso dell'intelligenza nelle vetrine vuote della loro ignoranza. Banditi. Specials. Ammolliamo un pochino la corda. Dopo palcoscenico al Neon ed Erode. Old style. Ancora il 22 aprile, quanto riguarda l'anno del forte, 1986-2016, 30 anni forti, il forte prenestino, 22 aprile dall'Olanda, di X. Call preceduta dalla presentazione del film Da qui alla ruggine, laboratorio film Officine Schwarz, Italia 2015, 62 minuti, con la partecipazione del regista Osvaldo Airoldi, quindi di ex al Forte Prenestino. And if your friends are racists, don't pretend to be my friend. Poi invece c'è il Freak Show, che quest'anno sarà ospitato dal Forte Prenestino sabato 23 e domenica 24. Spettacolo e musica da 5 palchi, mercatino e giochi. Appunto il 24 Resistance Sunday Fest, Graham Nauri, Noisra, Limrens. Quindi Resistance Sunday Fest, giornata di sostegno, a sostegno di Radio Onda Rossa e di tutti quelli che come noi resistono per mantenere vive le proprie passioni a Montelanico, piazza Cavour, zona centro storico. Ancora il 24 dalle 19 all'ex SNIA, azione diretta ad Alton, istinti ostili, atti vandalici. Diario di bordo. Aprile 2016, ore 10, tutte e tutti al Colosseo. Ieri partigiani, oggi antifascisti. Corteo fino a Porta San Paolo, conclusioni, centro culturale Ararat in via del Monte Trestaccio. Partigiani e antifascisti, sempre. Insomma, poi tutte le iniziative del 25 aprile sono molte nei vari territori, nei vari quartieri di Roma. Ve le elencheremo tutte qui dalla radio e nelle varie occasioni delle trasmissioni degli spazi redazionali. Mezzanotte passata da 37 minuti, quindi noi vi lasciamo qui, vi lasciamo in compagnia della compagna automatica Zara e delle repliche che vi proporrà durante la notte. Noi ce ne andiamo così, e in questo clima che di preparazione appunto alla festa per noi più importante, che festa non è, ma sempre giornata di lotta, il 25 aprile, non possiamo che essere vicini, complici e solidali con tutti i detenuti e le detenute. E a tutte e tutti coloro costretti a condizioni di limitata libertà personale, strumenti sempre più utilizzati dal fascismo nemmeno più strisciante che ormai pervade i rapporti sociali in questo paese e in tanti altri paesi. Il sesto riprenderà con domani mattina con la lettura delle prime pagine, la rassegna stampa cittadina, poi bisogna azzeccare il giorno, se no si dice il palinsesto di qualcun altro, qualche altro giorno, i redazionali del giovedì mattina. Non so se domani è la volta di Roma a Roma, che ogni 15 giorni è presente il giovedì mattina, poi alle 13 giornale radio, alle 13.30 spazio comunicazione. Alle 14 visionari la trasmissione sul cinema di Radio Onda Rossa, Tracce di Cinema alle 15, Attica Blues, oltre alla Black Music alle 16, Le Schiena del Sole alle 17, alle 18 Profondo Rosa, Movimenti LGBTQI. Alle 20.15 Allegro con Fuoco, la trasmissione di musica classica di Radio Onda Rossa di Utter Surf Invasion, che salutiamo. Alle 21. E a chiudere la programmazione di Radio Onda Rossa, un altro abbraccio ai compagni di Apostasia che chiudono le trasmissioni del giovedì. Noi ce ne andiamo sotto la luna comunista, dai e buon 25 aprile, ci vediamo a Montelanico il 24 dalla mattina, dalle 10:30 in poi, dai e. our dreams. I'll share our dreams under a communist moon.